Will occur. ripetiamo ancora una volta, mi sa che prima non avete sentito, una benemerita siega, una bella siega, nulla per quanto riguarda gli indirizzi utili di radiazione. Avevo lasciato il microfono spento, mi sa, me ne sono accorto perché c'è il preascolto della radio e quindi ho sentito che andava solo il sottofondo e poi basta. Allora, li ripetiamo ancora una volta, la mail di radiazione per chi vuole mandare comunicati, scritti, lettere, consigli, locandine online, riviste online, notizie da un po' da tutto il mondo, lo può fare attraverso la mail di radiazione, radiazione@autistici.org. Invece per il blog, dove potete riascoltare anche quando cazzo volete voi le dirette d'azione, perché da lunedì scorso le dirette vengono registrate e messe sul blog di radiazione, sotto la categoria ascolta le dirette d'azione, lo potete fare attraverso il blog di radiazione, radiazione.noblog.org, blog dove potete andarvi a rileggere anche tutte le notizie che sono state date durante le dirette d'azione. Potete trovare dei download come opuscoli, come qualche video, c'è un po' di cose da potersi scaricare nel blog di radiazione, quindi un'occhiata fa sempre meglio, anche perché a volte capita che leggo le notizie e ci capite una sega, specialmente quando i nomi sono greci, cioè sta difficoltà con i nomi dei compagni greci, allora vi potete chiarire tutto attraverso il blog radiazione.noblog.org. Invece per la radio lo sapete già, radiazione.listentumaradio.com, oppure attraverso il blog radiazione.noblog.org, cliccate sul banner, immaginetta con la pipa che lampeggia, e vi si accende direttamente la radio. Marcello sta per arrivare, mi ha mandato il messaggio, ha detto ora sto arrivando, tieni in mano, io tengo in mano, nel caso non sia arrivato subito dopo il prossimo brano, partiamo con il primo comunicato di Contrainfo e poi dopo quando arriva Marcello si inizia con la vestita. Il prossimo brano sono Go Town e il brano I Fit on Your Grave. It's not and the wind blows, it moves through the trees, sinister and haunting on its way as it creeps. I lie in this dark place, searching myself for the strength I had before it all came down. And man, if you were smarter, you would have got farther. But now, you can't be saved. The sinner will be chosen, his bones will be broken on this judgment day. I spit on your grave. Stop me from bringing my Allora, questi erano Ghost Hound con il brano I Speak on Your Grace, scusate, sulla vostra tomba. Ci siamo quasi anche per la lettura, e tempo si mette il cappello, sta un attimo, e poi dopo si parte subito con la lettura di Black Flag di Valerio Evangelisti, è il nuovo capitolo. Noi nel frattempo approfittiamo che si rilassa un attimo, è appena arrivato, per dare le prime notizie di Contrainfo. Praticamente un po' in tutto il mondo si stanno portando avanti delle iniziative in solidarietà con gli sgomberi che ci sono stati e gli arresti che ci sono stati ad Atene, in particolar modo con gli sgomberi di Villa Malias, con lo sgombero di Scaramaca, con lo sgombero della facoltà di economia e commercio, dove sono state sequestrate le attrezzature alla radio dei compagni 98 FM. Insomma, in tutto ci sono stati 160 arresti, fortunatamente tutti liberi ora, però le azioni in solidarietà si stanno portando un po' avanti dappertutto, a Lisbona, in Grecia in particolar modo, a New York, dove è stata attaccata la Marathon Bank, che è una filiale della Piraeus Bank, un grande gruppo bancario, insomma, a Brighton. La solidarietà non manca. Ora ci ascoltiamo un altro brano, Juliette Lewis and the Leaks, poi dopo subito si parte con la lettura del nuovo capitolo di Valerio Evangelista e Black Flag. Lewis con il brano Coming Around. Ora possiamo attaccare anche direttamente con il libro Black Flag. Paradise 5. Electroshock è un altro trattamento che viene usato talvolta per la depressione in luogo dei triciclici. L'electroshock è stato usato per molti anni ed è ben riconosciuto come uno dei trattamenti più efficaci a disposizione per curare le forme depressive. Esso ha ricevuto non di meno una pessima pubblicità e molte persone ne hanno timore. Nancy C. Andreessen, The Broken Brain, 1984. La navetta era già là, ritta sugli alettoni posteriori. Sulla fiancata si leggeva il suo nome, dipinto a grandi diagrammi neri, Krepelin III. Era immensa e un po' sbilenca. L'assenza di tecnici alla base e la bruma color mattone dovevano aver reso l'atterraggio alquanto problematico. La piattaforma di metallo che sormontava lo scheletro dell'ospedale era del resto tutta arrugginita e ammaccata in più punti. Rimaneva però una struttura titanica che suggeriva l'idea di un'epoca di realizzazioni grandiose. Adesso era una montagna di ferraglia. Si udì un fischio acutissimo, poi una voce catarrosa gridò da un altoparlante invisibile. «Per favore, gli infermieri si accostino alla navetta! È il dottor Kurada che parla! Gli infermieri si accostino alla navetta!» La folla che continuava ad arrivare da ogni zona di Paradise ebbe uno sbandamento di stupore. Anche Lilith non capiva. Gli infermieri? Ma quali infermieri? Ma che cos'era un infermiere? Dalla moltitudine assemblata davanti all'ospedale si levarono risatine di scherno che dilagarono in fretta. «Ripeto, sono il dottor Kurada dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità Mentale. Gli infermieri dei servizi psichiatrici d'emergenza sono pregati di accostarsi alla navetta. Io e il mio staff dobbiamo scendere.» Le risatine divennero risatacce e in un attimo l'intera folla scoppiò in una ilarità forsennata. Anche Lilith fu colta da un sorriso squassante, dovuto più a contagio che ad allegria. La situazione era paradossale. Il tizio della navetta ignorava che gli addetti ai servizi psichiatrici si erano uccisi tra loro almeno lampi prima. I servizi erano rimasti una sigla illeggibile incisa sui distributori automatici di farmaci e viveri. «Non vedo avvicinarsi il personale di cui abbiamo bisogno. Prego i presenti di lasciarlo passare. Non dobbiamo scendere, possiamo scendere solo con gli infermieri, altrimenti procederemo prima a un elettroshock collettivo.» Le risate continuarono, ora meno fragorose. C'era perplessità in giro. «Che diavolo sta blaterando quel tizio?» chiese a nessuno in particolare un omone in canottiera che sanguinava dal naso. «E che cosa sarebbe un elettroshock?» «Io lo so», rispose una donna abbastanza anziana che portava al collo una testolina infantile recisa e mummificata appesa a un filo di ferro. «È l'aggeggio che provoca i lampi.» Le facce di alcuni degli astanti si fecero inquiete. «Ma non vorranno fare un lampo adesso?» esclamò un ragazzo sciancato con una nota di spavento. «Quello di quest'anno già c'è stato.» «Forse è questa la festa», mormorò flemmatico l'omone in canottiera. «E siamo nel 3000, l'anno di cui parli è già trascorso.» L'uscita suscitò esclamazioni allarmate e per fortuna il dialogo era stato udito da pochi, o sarebbe stato il panico. Lilith pensò al lampo di qualche mese prima e rabbrividì. La sensazione orrenda che tutti i suoi nervi si contraessero simultaneamente, accompagnata da un dolore lancinante, la percezione di un danno irreversibile alle proprie cellule cerebrali, la voglia intensa di morire, seguita da una spossatezza innaturale e malaticcia. A ogni lampo facevano seguito ore o giorni di abulia trasognata, come se la vita fosse sospesa. Quando riprendeva il suo corso, era sempre più brutta di prima. Lilith fu strappata alle proprie fantasie da un tocco leggero sulla manica. Riconobbe Carmen, una giovane bruna che abitava al nido attiguo al suo. «Ciao Carmen», le disse, «ieri sera ho ucciso tuo padre.» «Hai fatto bene, era un fobico, un peso inutile, mi hai risparmiato alla fatica.» Carmen, una ragazza dalla carnagione scura e dalle forme sottili, si guardava intorno con freddi occhi azzurri. «Vieni con me, stanno cercando donne carine. Si fa uno scherzo a quel dottor Kurada, così comincia la festa.» «E chi è che sta cercando donne carine?» «Norman Kalecki.» «Ah, eccolo laggiù, vieni con me.» Lilith conosceva anche troppo bene Norman Kalecki. Era stata violentata da lui parecchie volte. L'uomo, giovane e muscoloso, abitava un nido al di là della strada, tra i più temuti di quella zona di Paradise. A suo modo era un leader. Scorse i capelli biondi di Norman, svettare più avanti. Quando riuscì ad avvicinarsi a lui, notò che aveva sotto braccio un rotolo di vesti bianche. Alcuni suoi sgherri alla pelle ambrata che lo seguivano in fila indiana portavano rotoli uguali. «Prego ancora gli infermieri di venire alla navetta», tossicchiò l'altoparlante. «Sono curata, non potrò fermarmi a lunghi, pochi minuti e saremo costretti a tornare sulla luna.» «Lilith, vieni anche tu», chiese Norman nel suo tono soffice e cortese. «Benissimo, vediamo di fare in fretta.» We'll be right back. il migliore. Seguirono giorni in cui il sapore del sangue e quello del metallo si avvertivano nella saliva e le narici erano aggredite dall'odore della polvere da sparo. Bloody Bill aveva deciso che non si poteva restare nell'accampamento, anche a costo di rinviare il raduno delle bande guerrigliere. Né lui, né i suoi uomini, avevano dimenticato il grande lupo in piedi sullo sfondo del cielo e i prodigi che avevano accompagnato la visione. Il nervosismo generale era poi stato accresciuto dal suicidio di John Shepherd. Il vecchio si era fatto saltare il cervello con un solo colpo di pistola in bocca, un'ora prima che scadesse il tempo fissato da Pantera per la sua morte. Nessuno, a parte Molly, sapeva della minaccia, ma lo stato d'animo di tutti era stato ben riassunto da Maupin. Quando un uomo di quell'età si uccide vuol dire che ha paura di qualcosa di più brutto della morte, aveva detto sputando al suolo prima e dopo la sentenza. Shepherd era stato seppellito sotto un metro di terra e ricoperto alla meglio. Bloody Bill aveva iniziato a leggere un passo della Bibbia, ma dopo essersi impappinato un paio di volte aveva scagliato lontano il libro. Ah, basta, era un vecchio scemo, lasciamolo ai vermi e andiamo via di qui. Cavalcarono furiosi, bandiera nera alta davanti, mentre la carretta di Bella Garrig si sforzava cicolando di tenere la velocità del manipolo. Doveva essere il 27 luglio quando entrarono a Shelbina, un minuscolo villaggio sulla ferrovia Hannibal e San Joseph. Lì i bushwalkers si limitarono a spogliare gli abitanti degli orologi e denaro e saccheggiare negozi e a dar fuoco ad alcuni magazzini. Poi, bruciati un paio di vagoni, si diressero a est e distrussero il deposito di Langman. Nella stessa giornata raggiunsero le rive del lago Salato e riuscirono a svelere un lungo tratto di ferrovia dopo aver incendiato la casa di un tizio che aveva la sfortuna di abitare nei paraggi. Poiché non si avevano notizie delle altre bande e la linea ferroviaria era ormai interrotta, Bloody Bill portò i suoi uomini a Danceville. Qui pescò un vecchio giudice, padre di un ufficiale unionista, lo fece impiccare e mentre l'uomo sgambettava in aria prese a frustarlo egli stesso con uno staffile scovato nella stalla. Anderson pareva ubriaco fraccio, forse era solo sovraccitato. Allontanò con un calcio la bimbetta che gli implorava pietà per il nonno. Smise la flagellazione solo all'arrivo di un contingente federale avvertito da qualche servo. Lasciò il vecchio a torcersi coperto di sangue, ma incredibilmente ancora vivo. Il 31 luglio si divisero in due gruppi. Pantera seguì quello comandato da Jim, il fratello di Bloody Bill. Piombarono su una scuola dalle parti di Macon County e rapirono 32 bambini, 24 si professarono fedeli alla Confederazione e furono lasciati andare. Gli altri 8, recalcitranti o troppo spaventati per rispondere, furono denudati, fatti inginocchiare e frustati fino a scorticare le loro schiene. Jim Anderson si divertì a puntare la canna del revolver contro la tempia di ciascuno di essi e far scattare a vuoto il percussore. A due tagliò i capelli col coltello, fingendo di scoternarli. Quando si stancò, li abbandonò a frignare in mezzo al bosco. Oggi avete avuto la lezione più importante della vostra carriera scolastica, gridò ai ragazzini, prima di perderli di vista. Nel caso la dimenticasse, pensate al ramo a cui ha appeso il vostro insegnante, la sua lingua blu vi rinfrescherà la memoria. Il giorno dopo, le bande di Jim e di Bloody Bill si ricongiunsero, uccisero vari civili in Carroll County, poi occuparono una fattoria delle località chiamata The Ground, tra il Grand River e il fiume Missouri. A sera i bushwalkers furono attaccati da coloni armati, ma le respinsero con facilità. Catturarono un tale John Kirker, che in quanto presunto Dutch ebbe diritto a un trattamento speciale. John Maupin prima lo scotennò, poi lavorando di coltello gli staccò la testa e la gettò alle donne della fattoria, una con un neonato in braccio, costretta ad assistere allo spettacolo. Mentre si allontanava con lo scalpo sanguinante in pugno, Maupin dovette scorgere negli occhi impassibili di Pantera una traccia di disapprovazione. Te l'ho già detto, è un nuovo modo di combattere, gli sussurrò irritato. D'ora in poi ogni guerra sarà così. Si sfregò la faccia col brandello di cuoio capelluto fino a tingerla di rosso e scoppiò in una risata sguaiata. Pantera si limitò ad alzare le spalle. Aveva notato che, dalla luna piena in poi, i guerriglieri erano diventati più selvaggi e scorbutici. Paradossalmente, l'unico che pareva fin troppo quieto era Cover. Entrava ed usciva dal callo di Bella Garrig, ubriaco di sali d'oro, e durante i massacri osservava e guaiva, spesso piegato in due dal dolore dello stomaco. Sembrava sopraffatto da un'enorme stanchezza. Ma, pensò Pantera, forse si trattava solo di energia che non trovava sfogo. A suo giudizio l'uomo era invaso da anch'isi potentissimi che si agitavano in attesa di manifestarsi in un'occasione degna della loro forza. C'era da presumere che questa non si sarebbe fatta attendere. La marcia omicida di Bloody Bill continuò per qualche giorno ancora, lasciandosi dietro una scia di incendi e devastazioni. poi il piccolo esercito trovò riparo in una fattoria abbandonata presso il confine con la Ray County. Era un luogo ameno, fatto di hitchcorries e di castagni, con una terra buona tutto attorno. Chi ne era fuggito nulla aveva fatto per indigenza. La notte Pantera si distese accanto a Mulder, ammicchiata su un mucchietto di paglia in un angolo della casa colonica diroccata. Il soffitto sfondato permetteva di scorgere qualche stella e la luna calante. Alzati la sottana e tirati giù le mutande, ordinò il messicano, ne ho voglia. La ragazza, da quando Pantera l'aveva presa sotto la propria protezione, non era stata più infastidita. Manifestò una timida sorpresa, ma obbedì senza fiatare. Pantera la penetrò senza brutalità e senza dolcezza, come chi segue una normale funzione fisica. Si mosse ritmicamente sopra di lei fino all'eiaculazione. Non la baciò, non la palpò e non badò a un tenue gemito di piacere. Concluso l'atto, sollevò i calzoni e si gettò sulla paglia. Ricollocò accuratamente le due coltre nella cintura. «Bene», si limitò a dire. Passò un po' di tempo prima che lei parlasse, mentre ancora si sistemava la gonna. «Non sei come vuoi sembrare, non sei come questi qui». Lui grugnì. «Continua a ripeterlo, pensala come vuoi, se ciò può consolarti». Molly gli si avvicinò un poco, gli posò una mano sul braccio, accennando una carezza. «Ti fingi di ghiaccio, ma io non lo credo. Non fingo mai, semmai mi hai detto ai tempi». Pantera temette che la ragazza gli ponesse altre domande fastidiose e si alzò. Aveva visto un filo di luce penetrare da una crepa del muro. Nella stanza contigua molti uomini stavano dormendo, avvolti nelle coperte, tra barili sfondati e masserizie coperte di calce. Lui evitò gli ostacoli e si diresse alla porta priva di battente. Fuori cantavano i grilli e l'aria era tersa. Il bagliore proveniva dal carro di Bella Garrigue, al margine del bosco. Di sentinella c'era un certo George Williams, un ragazzo arrivato da poco che non lo salutò con un gesto senza fiatare. Pantera rispose al saluto e si avvicinò al carro, sollevò il telone posteriore. «Ma guarda, c'è l'amico stregone!» esclamò Bella Garrigue cordiale. «Sali pure, lasciaci solo finire la partita!» Il medico apprendista e Hump Woods stavano giocando a carte, accoccolati attorno ad una cassa che fungeva da tavolino. Forse carte europee, pensò Pantera. Recavano figure e simboli colorati che non aveva mai visto prima. Tuttavia, ciò che lo stupì davvero fu il contenuto del carro, parzialmente illuminato da una lampada a petrolio appesa ad un cerchione. Per prima cosa notò una rana inchiodata su una tavola. Sembrava morta, anzi quasi decomposta, però ad intervalli regolari contraeva tutte e quattro le zampe. Effetto senz'altro dei fili di rami collegati al corpo e agli arti dell'animale, avvolti all'altra estremità attorno a un grosso rocchetto ronzante. Ma il carrozzone, più ampio di quanto apparisse dall'esterno, celava altre inquietanti meraviglie. Per esempio, una tinozza bassa, abbastanza ampia da accogliere un corpo umano, vuota di liquido ma irta di stecche metalliche. O una piccola collezione di vasi contenenti feti, tutti gli animali forse tranne uno. Anche da lì dipanavano fili di rami sottili aggrovigliati. Ma la palma della stranezza andava ad una pelle di lupo stesa sul fondo del carro, completa di testa e di zampe. Qualche incomprensibile meccanismo la faceva scuotere e sussultare, sia pure leggermente, come se ancora contenesse il corpo della bestia. Pantera, che pure aveva come una certa dimestichezza con ogni genere di prodigi, non riuscì a reprimere un brivido. C'erano spiriti in quell'abitacolo, spiriti, non buoni. Mentre inerpicandosi sostava a curva alla ricerca di un sedile, i due giocatori proseguivano la loro conversazione. «Ti intestardisci con lo schiavismo», stava dicendo Bella Garrigue, mentre sceglieva una carta. «Eppure, sai anche tu che quella non è che una sciocchezza per tenere assieme la Confederazione o quel che ne resta. È lo stile di vita. L'Unione ci prepara un futuro fatto di opifici e di città caotiche come le loro metropoli. Noi ci battiamo per un'America in cui nessun governo ostacoli la proprietà individuale e le scelte del singolo. Non c'è governo che non sia nemico naturale della proprietà». Hump Woods fissò a sua volta le carte mentre con le dita affusolate della sinistra si accarezzava il mento orlato di viso. «D'accordo, ma la schiavitù è un principio che poi si riassume in autorità e disciplina. Servono gerarchie, ruoli ben definiti. Questa è l'anima del Sud, e lo schiavismo nella sintesi. Bene, io sostituisco il Fante». Mise sul tavolo una delle carte che aveva in mano e ne prese un'altra dal tallone, tenendola coperta. «L'anarchia che ti è tanto cara è l'antitesi di ciò in cui credo io. Sogno una società simile a quella che rimproverà gli unionisti. Lavoro obbligatorio, limiti all'arricchimento, livellamento collettivo. Se vai a New York, Anselm, puoi già vedere uno specchio del tuo ideale». Bella Garrigue scosse il capo con energia. non essere ingeneroso, Hemp, non scambiarmi per un socialista. Non voglio in comune né le terre né i cervelli. Quando appartenevo alla Guguette dei figli del diavolo, te ne ho già parlato, non è vero? Sì, sì, la corale dei figli del diavolo, la tua società segreta. Ma pensa al gioco, tocca a te scartare. Il medico lasciò cadere la propria mazzetta sul tavolo. Inutile, mi chiamo Fury, ho più di 150 punti, mi dispiace dirlo, Hemp, ma il piqué non fa per te. Sorrise a Pantera. In che modo posso esserti utile, ragazzo? Il messicano alzò le spalle. Non riuscivo a dormire. Ho visto la luce e sono venuto. Immagino che tu sia sorpreso nel vedere tutti questi apparecchi. Quando pratichi i tuoi rituali non hai bisogno di nulla del genere. O mi sbaglio? Pantera non rispose. Aveva visto in un angolo oscuro qualcosa che lo colpì più di tutti gli altri, a me Nicoli. Il solito intrico di fili, questa volta avvolgeva un braccio umano mozzato, come la rana e come la pelle di lupo, era percorso da periodi di contrazione, tanto che le dita si stringevano e si distendevano. Non ebbe difficoltà a riconoscere l'arto che Kruger aveva strappato al contadino tedesco. Bellagariga aveva inseguito la direzione del suo sguardo. Interessante, non è vero? È un regalo di Johnny. Tu non puoi capire, ma quando avremo il pieno controllo del magnetismo animale non ci saranno più limiti al progresso. Gli occhi del medico brillarono un poco. Caricare di energia il metallo che è in noi, renderci di nuovo belve predatori, questo è l'obiettivo. Uomini liberi capaci di vivere fuori ogni costruzione sociale, così come vivono i lupi che hanno abbandonato il branco. Ognuno potente quanto una pila galvanica, in pratica tanti magneti che si respingono. Hemp Watt stava cercando qualcosa alla base del tavolino di fortuna. Quando lo trovò sbarazzò le carte col gomito e al loro posto posò una bottiglia di rum. Poi recuperò dal fondo del carro 3 bicchieri sporchicci, li riempì e ne porse uno a Pantera. Amico mio, hai di fronte a te un vero utopista. Anselmo è così. Una specie rara che solo l'Europa poteva partorire. Ingollò una sorsata di rum, di cui il pomo d'Adamo seguì la discesa. Pericolosa però. Nel nord la gente come lui ha persuaso gli operai a scioperare in piena guerra. La cosa potrebbe farmi piacere se non fosse che un mestatore di nome William Silvis è calato un mese fa a St. Louis e incita gli straffattori a seguirne l'esempio. Comincio a credere che la schiavitù andrebbe estesa a tutti i salariati. Questa volta Bellagarig perse la calma. Non ho niente a che vedere con le associazioni operaie e tutta l'altra merda, esclamò. Ho scelto l'America perché è qui che nascerà la vera anarchia. Niente governi, niente capi, niente eserciti regolari, individui liberi di possedere e di badare a se stessi, pronti a uccidere chi voglia imporre loro qualcosa. Bloody Bill non lo sa, ma sta costruendo una nazione. People come and hold me. People from the woods I do. E questo era Time Tiffany con il brano New Colony. Ora c'è, prima di continuare con la lettura di Black Flag, si leggerà una notizia di Contrainfo, arriva dal Cile, praticamente 16 gennaio 2013, i giudici Manuel Guerrero, Francisca Barahona e Karina Portogallo hanno condannato il compagno Sebastian Fajardo, Sebastian e Eduardo, due compagni, erano stati arrestati nel mese di gennaio del 2012 in una manifestazione per commemorare la morte di Mattias Catrileo, dove fu dato fuoco ad un autobus della Transantiago. Dopo 10 mesi di custodia cautelare nel carcere di Santiago 1, la settimana scorsa è iniziato il processo a carico di entrambi. Il compagno Sebastian è stato condannato per aver dato fuoco ad un autobus della compagnia Alsace, lanciando una bottiglia con un liquido infiammabile all'interno del bus, mentre Edoardo Garay è costato completamente assolto dalle accuse. Il pubblico ministero ha dichiarato come questa condanna sia importante perché si tratta di un reato che non aveva tante prove e raggiungere questo risultato gli permette di dare un segnale importante. La difesa ha sottolineato che si appellerà alla sentenza da parte sua e l'accusa ha chiesto 4 anni di carcere per incendio doloso e detenzione di bomba incendiaria a carico di Sebastian. Lunedì 21 gennaio 2013 ci sarà la sentenza contro il compagno Sebastian. E ora continuiamo la lettura di Black Flag con il nuovo capitolo. Pantera aveva smesso da un pezzo di ascoltare i due chiacchieroni. Si chiedeva invece se la tinozza fosse il recipiente in cui Koger subiva i bagni che tanto temeva. Quanto alla carne e al pellame che si muovevano da soli, avevano smesso di incuriosirlo. Chiaramente Anselm Bellagarig conosceva il modo per evocare gli indochi, gli spiriti più maligni. Trovava scuse razionali al proprio potere solo per ingannare meglio il prossimo. Le asticelle di rame, per esempio, erano senz'altro dei palos, un poco modificati, mentre il mastello di legno poteva benissimo fungere da prenda durante i rituali. Così si spiegava la funzione dei feti sottovaso, erano la componente organica necessaria alla riuscita del cerimoniale. Pantera fu distratto dalle proprie riflessioni da un grido proveniente dall'esterno. «Arriva qualcuno!» Chi si sgolava era George Williams. «Cavalieri armati!» Si udì un trambusto e qualche nitrito. Bellagarig si alzò di scatto e afferrò per la canna, traendo da dietro un sacco un fucile a retrocarica di modello sconosciuto, con un otturatore cilindrico scorrevole. Anche Wyatt strasse dal fodero la sua Colt. Pantera, invece, si limitò a posare la destra su uno dei suoi revolver, mentre con la sinistra spostava cauto il telo posteriore del carro. Gli uomini stavano uscendo di corsa dalla fattoria diroccata, alcuni reggendosi i pantaloni o abbottonandosi la giacca. L'allarme però durò poco. Il piccolo Archie Clemens levò il cappello in aria con un gesto gioioso. «Ehi, ma sono i ragazzi di John Trykill!» Sparò un colpo di pistola in direzione della luna al primo quarto. «Come va, John? Ti aspettavamo!» «Finalmente vi ho trovati!» rispose una voce robusta. «Diavolo! Ti abbiamo cercato per tutto il Missouri!» I nuovi venuti, una cinquantina, stavano entrando nella radura percorrendola in circolo al galoppo. Gli zocco degli animali erano fasciati in panni e ciò spiegava come la squadra fosse potuta giungere inavvertita fino alla fattoria. Parecchi cavalieri adesso sparavano in segno di saluto. Le fiamme del falò semispento erano tenue, però consentivano di scorgere visi giovanili, allegri e feroci, che sporgevano dalle consuete uniformi di fantasia, oppure da mantelli orlati di pelliccia. Bloody Bill si fece avanti e strinse la mano a Trykill. «Tutto bene, John?» «Tutto bene, Bill. Abbiamo solo voglia di menare le mani.» «Notizie di George Todd e degli altri?» «No, nessuna notizia. So solo che Old Claw sta scendendo con i suoi da Lane County. Ne ha appena le scatole anche lui dell'esitazione di Quantrill. Vuole sangue. Tutti ne vogliamo.» Trykill era un giovanotto ben messo, dai capelli tagliati a lavaggio, impomatati con cura. Sulle spalle aveva una pretenziosa mantellina nera, stretta al collo da una cordicella argentata. Invece la camicia era rossa, come quella dei volontari italiani di New York che combattevano per l'Unione. Non mostrava né cinturoni né cartucce, ma solo una sciabola che gli batteva sul fianco. Frank James si fece porgere le redini del cavallo. «Vieni a mangiare qualcosa, John, ce n'è per te e per i tuoi ragazzi. Siamo talmente carichi di bottino che prima o poi dovremo lasciarne una parte lungo la strada.» «L'unico bottino che mi interessa davvero sono gli scalpi dei porci Yankees.» Fu Anderson che rispose funereo. «Di quelli ne abbiamo ancora troppo pochi. Non appena saranno qui gli altri gruppi vedremo di rimediare.» A fianco di Pantera, Bella Garig ridacchiò. Bel tipo, Bloody Bill, una vera belva. L'uomo ideale per la rivoluzione individualista. Peccato che gli interessi poco di temi politici e sociali, a lui interessa solo la vendetta. Ma di cosa si deve vendicare? Chiese il messicano. L'anno scorso i federali rastrellarono le donne sospettate di complicità con la Confederazione e le deportarono in un magazzino di Kansas City, adibito a carcere. L'edificio pericolante, sovraccarico, crollò. Josephine, la sorella 14enne di Bill Anderson, morì sotto le macerie. Un'altra sua sorella di 16 anni rimase orribilmente sfigurata. Capisco, mormorò Pantera. Bella Garig rise più forte. Non credo proprio, Bloody Bill era un uomo d'acciaio prima della tragedia e l'ho rimasto dopo. Gli serviva solo un alibi per scatenarsi. Puntò l'indice. Guardalo. Anche quando è calmo ai movimenti di un animale selvatico. È un predatore nato, fiero e solitario, un po' come te. Pantera non ascoltò le parole del medico. Tra gli uomini sparsi davanti alla fattoria, uno guardava con insistenza dalla sua parte. La distanza era notevole, la luce fioca, ma lo riconobbe senza incertezza. Si trattava di Richard Kinnery. Da giorni aspettava quello sguardo. Prima o poi il ragazzo avrebbe cercato di riscattarsi dell'umiliazione che lui aveva inflitto. Pantera indicò il fucile di Bella Garig. Un'arma molto bella, straniera immagino. Oh sì, rispose il medico compiaciuto. È un Dreyse con percussori ad ago. L'esercito prussiano l'ha in dotazione da una ventina d'anni, ma finora ce l'hanno solo loro. Un fucile rarissimo e quasi perfetto. Posso vederlo? Oh sì, prendilo pure. Tanto adesso non serve. Mentre porgeva l'arma, Bella Garig si rivolse ad Ampliat, i piedi sulle spalle. Se ripenso alla nostra discussione iniziale, devo concludere che sei un gran testardo, che tu lo voglia o no. Il problema è la terra. Proprietà equivale a libertà. E quando ogni americano bianco, maschio adulto, avrà la propria particella di terreno, grande o piccola che sia, non serviranno più leggi. E l'America è un paese abbastanza grande perché... Pantera palleggiò il fucile tra le mani e ne saggiò il meccanismo. Appena ebbe familiarizzato un poco con l'arma, appoggiò il calcio alla spalla e puntò la canna verso la notte. Attese che qualcuno dei ribelli sparasse in aria in segno di festa e tirò il grilletto. Il percussore ad ago fece il proprio dovere, il rinculo fu minimo. Richard Kinnery si accasciò senza un grido. Pochi, attorno, notarono la sua morte. Pantera restituì l'arma ancora fumante a un esterrefatto Bella Garig. Con tanti colpi sparati per gioco c'è il rischio che una pallottola vagante colga qualcuno, commentò. Comunque questo Dreyse è formidabile. Occorsero alcuni istanti perché il medico si riprendesse dal proprio stupore. Dopo varie deglutizioni riuscì a sussurrare. Accidenti, che uomo! Prese il fucile e lo gettò di lato, quindi ripeté ad alta voce. Che uomo! Anzi, che lupo! Cosa ne dici, Emp? Wyatt, benché impressionato, pronunciò il proprio commento con distacco. Beh, di sicuro sa uccidere alla maniera americana. Direi che è uno dei nostri. Fuori qualcuno si era accorto che Kinnery era cadavere. Ci si guardava intorno senza però avere frenesia. La tesi dell'incidente doveva sembrare la più probabile. Dopo un po', Hemp Wyatt sussurrò. Togliti dai piedi, messicano, qui nessuno ti denuncerà. Fissò Bella Garig con aria polemica. Racconti storie, non c'è terra per tutti e non tutta la terra è coltivabile senza braccia. La schiavitù è una necessità economica prima che morale. Sbagli completamente, ma chiediamolo a lui. Il medico trattenne per la manica Pantera che stava per saltare fuori dal carro. Secondo te, messicano, è meglio che ciascuno abbia la propria terra o che alcuni siano costretti a coltivare campi altrui? Cos'è più democratico? Pantera si sottrasse alla stretta con un moto disgustato del braccio. Non mi chiamo messicano, mi chiamo Pantera. Solo quando ebbe messo in piedi i piedi sul suolo erboso raggiunse. Quando ho combattuto con Juan Nepomuceno Cortina l'ho fatto per difendere gli ejidos, le terre comuni. Non so altro. Buonanotte. Si allontanò nel buio tra le due bandi che, per familiarizzare meglio, si erano raccolte attorno a un barilotto di whisky. Pochi, Frank James, l'unico turbato per la morte dell'amico Jim Anderson e alcuni altri, sostavano attorno alla salma di Kinnery. Probabilmente erano indecisi su cosa farne. La notte era diventata davvero fredda. Qualche minuto dopo, Pantera tornò a distendersi al fianco di Molly. La scoprì ancora sveglia. «Perché non dormi?» le chiese. Lei indicò ora una finestrella. «E come posso con quelli che mi fissano?» Pantera guardò l'apertura e sobbalzò. Fuori, un grande noce rinsecchito era debolmente illuminato dalla luce lunare. Sui rami scheletrici si tenevano accucciati in silenzio sette lupi bianchi dal pelo lungo e la folta coda. Le pupille rosso fuoco erano volte nella loro direzione. Pantera represse un brivido, ma anche uno sbadiglio. Sono troppo distanti per farci del male, mormorò poco convinto. E non sono nemmeno sicuro che siano davvero creature viventi. Troppi lupi in questa storia. Meglio dormire. È vero, adesso sono spariti. Ragione in più per riposare. Chiudi gli occhi e stai zitto. Pantera abbassò le palpebre, ma l'immagine dei sette lupi persisteva. Sia pure su uno sfondo nervoso, diverso da quello reale. Inutile scacciarla, lasciò che fosse il sonno ad averne ragione, trasportando la visione nell'ambito onirico. Notò dopo poco tempo che Molly russava, ma ciò non gli diede fastidio. Scivolò gradualmente nell'incoscienza o in un diverso stato di consapevolezza. La mattina dopo il sole brillava, non c'erano lupi, né sul noce né altrove. Quando Pantera aprì gli occhi gli giunsero i suoni di una grande animazione provenienti dal cortile della fattoria. Lasciò Molly, che continuava a dormire rannicchiata sulla paglia, e uscì. Il primo guerrigliero conosciuto che incontrò fu John Maupin, assonnato ma tutto allegro. Sono arrivati anche George Todd, C. Gordon, Tom Todd e Cliff Oldsclaw, gli annunciò il giovane. Ora mancano soltanto John Poole e Quantrill, poi conquistatori di Lawrence, ci sono tutti. La radura è ormai gremita di uomini a cavallo e altri se ne vedevano sbucare dalla prateria. Le bandiere nere bene in vista. Non era facile distinguere tra loro gli uomini delle varie bande mentre galoppavano in circolo come per mostrare il vigore dei propri cavalli. A parte i pochi che indossavano divise sudiste, nordiste e a casaccio, gli altri esibivano le solite criniere incolte, le piume del cappello, le giacche da cacciatore avvolte in fasci di cartucciere. Con gli uomini di George Todd c'erano due indiani, con quelli di Oldsclaw addirittura un negro. Per il resto si trattava di ragazzi americani da generazioni, in maggioranza biondi e con barbe rade, che lanciavano grida acute o agitavano trecci di scalpi. Alcuni degli astanti stavano per sparare in segno di saluto, ma un gesto severo di Archie Clements li bloccò. George Todd, l'ex braccio destro di Quantrill, fino a un paio di mesi prima aveva prima nemico giurato di Bloody Bill, fermò il proprio cavallo davanti all'antico avversario. «Ti venga un colpo, Anderson!» esclamò con un vocione baritonale. «C'è voluto del bello e del buono per rintracciarti, non dovevi lasciare il luogo dell'appuntamento!» Malgrado ottimi polmoni, George Todd, senza rapporti di parentela con Tom Todd, detto il reverendo, un pastore battista che dell'abito talare aveva conservato solo il fanatismo, non era affatto un colosso. Cadaverico, con un viso in cui la carne aderiva strettamente al teschio, era basso quasi quanto Archie Clements, ma nel suo caso c'era dovuto soprattutto alle gambe corte e smilze, inadeguate alla possanza del torace. Era arcinoto che scendeva da cavallo solo quando gli era costretto. Bloody Bill lo salutò senza alcuna cordialità. «Benvenuto, George. Sono stato obbligato a spostarmi, ma vedo che mi hai raggiunto ugualmente. Ci contavo». «Obbligato, dici? Beh, sì. Ho visto che là il terreno era tutto bruciacchiato e c'erano interi branchi di cani della prateria che vagavano tra gli alberi». John Todd tolse da un taschino un sigaro sottile, ne spezzò l'estremità coi denti e se lo ficcò in un angolo della bocca. «E che specie di guai hai avuto?» «Uno dei miei indiani continuava a ripetere che lì c'erano stati degli spiriti». Bloody Bill non ebbe il tempo di rispondere perché intanto era sopraggiunto Cliff Oldsclaw, un gigante nerboruto di una ventina d'anni, tanto robusto che il cavallo gli si piegava sotto. «Anderson, è vero che si va a Fayette? A me risulta che da quelle parti sia pieno di giacche blu». Non fu Bloody Bill a replicare, ma suo fratello Jim, che poco dopo, discosto, stava stappando una bottiglia di birra. «A Lawrence abbiamo lasciato il segno proprio perché la guarnigione era numerosa, Cliff. Ci occorre un'altra vittoria dello stesso tipo, altrimenti si penserà che sia stato un episodio isolato». Pantera non ascoltò il resto della conversazione. Si inoltrò tra i bushwalkers sopraggiunti, che ora cominciavano a smontare di sella per raggiungere la propria cavalcatura e dare una controllata. La chioma dell'Hitchcory, a cui aveva legato, cubriva l'ombra anche il cavallo di Empviat. Il gentiluomo lo stava strigliando, bene attento a evitare che il pellame gli finisse sulla giacca. «Un tempo questo lavoro me lo facevano i negri», sorrise Viet. Indicò l'accalarsi delle bande ribelli davanti alla fattoria diroccata. «Che tipi, vero? Il più onesto di loro venderebbe la madre per denaro. Quantri, per fortuna, è tutto diverso». Pantera esaminò il terreno per vedere se il cavallo aveva erba a sufficienza. Staccò dalla sella un barletto d'acqua. «Mi hanno detto che anche Quantri, prima della guerra, era un ladro di cavalli e un bar». «Sì, ma la guerra l'ho trasformato in meglio, come fa con tutti gli uomini. Prendi Bella Garrigue, era un pacifista e predicava la disobbedienza passiva, mentre adesso gettò la striglia disgustato. Il cavallo stava orinando. Quantrill è una belva come gli altri, ma almeno è un capobranco. Ne ha tutta la dignità e il portamento. Anche Bloody Bill è un capobranco». No, lui è tendenzialmente un lupo solitario. Ha trovato predatori che fanno al caso suo, ma persegue fini essenzialmente propri. Quali fini? Viet Sauvignon, questo è il bello. Nessuno. Come tutta l'altra gente che vedi qui. Si attendeva forse un moto di meraviglia che però non venne. Dopo Gettysburg, Vicksburg e Chattanooga, sappiamo tutti che la Confederazione è fottuta. Il generale Sterling Price sta scendendo nel Missouri con un po' di cavalleria, ma è un damerino che non sa niente di battaglia. La verità è che non abbiamo futuro, ciò è stupendo. Per la prima volta Pantera in arco un sopracciglio, stupendo. Lasciò che il cavallo la passa a sufficienza dal bariletto a barilotto, che poi gettò tra l'erba. Contava di trovare presto una sorgente in una regione tanto alberata. Sì, stupendo. Gli unionisti non lo immaginano, però noi abbiamo vinto la guerra nel momento stesso in cui l'abbiamo persa. Certo, tu non sai e non puoi capire, sei messicano. Magari un tedesco capirebbe. Viet si aggiustò il cappello e fece per andarsene, ma quando, fuori dell'ombra, il sole lo investì, lanciò una postilla quasi sognante. Non vedo l'ora che questa merda sia finita, il destino dell'uomo americano è a sud del Texas, poi ancora più a sud. Là non hanno sangue di lupo nelle vene, si essi lasciano mordere. Il fine dunque è mordere, azzardò Pantera. Esatto. Bravo messicano. L'umanità si divide tra chi ama mangiare e chi prova gusto a mordere. Tu non lo sai, però appartieni alla seconda specie. Guarda me, Oblate Bill, ti vedrai riflesso te stesso. Viet si allontanò con un'ultima risata, un po' cinica, ma scrosciante.